America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Cleveland, Mario Platero. Ladies and gentlemen, welcome to the second session of the 2016 Republican National Convention. The convention now will come to order. Da Cleveland, perché come avete sentito si è aperta ieri la convention repubblicana, una convention, beh, una convention anche un po' contestata, perché sappiamo che ci sono divisioni all'interno del partito e queste divisioni si sono viste un pochino ieri con la resistenza di alcuni delegati, soprattutto quando si è trattato di votare per l'avvio della discussione sulla piattaforma. Ma alla fine è stato di nuovo lui, è stato Donald Trump a scompaginare le tradizioni coreografiche di una convention. Perché in questa serata inaugurale, in questo grande appuntamento repubblicano, tra l'altro dedicato a una serata inaugurale proprio al terrorismo, al pericolo delle intrusioni dei jihadisti, alle divisioni razziali in America, alla necessità di proteggere i poliziotti, insomma al tema della sicurezza e la necessità di fare di nuovo l'America sicura, il di nuovo tra l'altro Trump lo applica a qualunque cosa prometta, ecco, in questa atmosfera, in questa apertura, si è presentato a sorpresa, perché il candidato in genere si presenta soltanto nella giornata dell'incoronazione, e si è presentato per introdurre sua moglie Melanie, che è apparsa all'improvviso sul palco con tacchi a spillo, trucco da nightclub, devo dire fasciata di bianco, bellissima, insomma una vera Barbie brunetta. Trump ha resistito perché non si è dilungato a parlare di sé, come molti temevano, ha fatto un paio di suoi slogan, diceva big, big, we win big, vinceremo alla grande, vinceremo, vinceremo alla grande. Poi subito, appunto con un po' di sorpresa, perché in genere ama parlare di se stesso, dopo poche affettuose parole di presentazione sul palco di questa arena, della Q Arena di Cleveland, se n'è andato e ha lasciato il pubblico con sua moglie. Prima di farlo però continuava a puntare l'indice su di lei, come dire guardate che roba. E il pubblico naturalmente rispondeva con grandi applausi. Melanie ha raccontato la sua storia, il suo tentativo di sfondare nel mondo della moda. Anche a Milano ha raccontato della sua infanzia in Slovenia, l'amore per la sua terra, le origini umili dei suoi genitori. Il suo discorso, devo dire, non è stato superlativo per interpretazione, però è ammirevole il coraggio di questa signora che si è presentata, non abituata a parlare di politica o a parlare a un grande pubblico, e ha affrontato la platea. Ecco, la sala poteva anche essere forse più piena di quello che era, perché interi spalti di questo palazzetto che ospita i Cleveland Cavaliers, che sono i vincitori del campionato del 2016, erano vuoti. E qui c'è il piccolo problema, o grande, a seconda di quelle che saranno poi le reazioni, perché interi stralci del discorso di Melanie erano identici a quello che fece Michelle Obama quando presentò suo marito al grande pubblico. Allora, diciamo, tutte e due cercavano di dare un profilo privato del marito, affettuoso, raccontavano quanto fosse buono il loro compagno, quanto fosse un gran lavoratore e così via, così via. E fin qui tutto bene, perché è ovvio che una moglie può cercare di raccontare le qualità private del proprio marito. Se non fosse che alcune frasi di questo discorso di Melanie erano proprio identiche, parola per parola, al discorso di Michelle Obama, tipo questa, sentiamo. The values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. Ecco, qui Melania dice che i genitori le hanno dato certi valori, cioè i valori secondo i quali tu devi lavorare duramente per quello che vuoi nella vita, il valore che è la tua parola e la tua garanzia e che tu devi saperla tenere in qualunque momento, è la tua promessa, che queste lezioni debbono essere passate alle generazioni che arriveranno dopo. Ecco, tutte queste parole, queste frasi, sono letteralmente identiche a quelle di Michelle Obama nella convention del 2008. Qual è la bizzarria? Che naturalmente tutta la convention è proiettata su un attacco contro Barack Obama e dunque insomma il fatto che la moglie di Trump poi usi le stesse parole che la moglie di Obama ha usato per descrivere il marito come dire, rappresentano una piccola contraddizione. Ma veniamo al tema della giornata, perché secondo me dal punto di vista della coreografia, dell'ordine degli oratori, poi alla fine questa serata ha funzionato. Sentiamo Patricia Smith. For all of this grief, I blame Hillary Clinton. Since then, I have repeatedly asked the real reason why my son is dead. I'm still waiting. Ecco, Patricia Smith è la madre di Sean Smith, uno dei diplomatici uccisi a Bengasi. Era un tecnico informatico in appoggio, in dotazione del consolato, ed è uno dei quattro che è stato ucciso al consolato di Bengasi nel famoso attacco da parte dei terroristi. E cosa dice Patricia Smith? Incolpo Hillary per la morte di mio figlio a Bengasi. Le ho chiesto di spiegarmi perché sia morto. Sto ancora aspettando una risposta. È stata lei che non ha voluto ordinare per ragioni politiche l'invio di soldati a proteggere i nostri diplomatici, a proteggere i nostri figli, nel mio caso figlio, padre e marito. Ecco, sono state parole che hanno destato molta sensazione, come quelle di Mark Gaist e di John Tegan, che sono due dei marines che sono sopravvissuti all'attacco all'ambasciata. Si sono difesi, erano armati e hanno fatto un racconto molto lungo, ricco di dettagli, agghiacciante, devo dire, sotto certi punti di vista, sugli avvenimenti di quella notte, quasi minuto per minuto. E loro erano lì e raccontavano come coi fucili, coi mitra cercavano di difendersi. È stato un racconto, devo dire, molto bello, ma quello che mi ha colpito è che queste persone che erano lì o che erano legate direttamente a quello che è successo a Bengasi alla fine erano schierate contro Hillary, e questo certamente non aiuterà il candidato democratico, perché non sono politici ma erano persone schierate sul campo. Sentiamo un altro degli interventi chiave di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York. It's time to make America safe again. And we say thank you to every police officer. When they come to save your life, they don't ask if you are black or white. Ecco, avete sentito la passione, l'urlo di Giuliani, devo dire, riuscito a mobilitare la folla, secondo me ha urlato forse un po' troppo, lo avete del resto sentito, il suo messaggio: è tempo di far tornare l'America un paese sicuro, ma dove siamo andati a finire? Ringraziamo i poliziotti invece perché loro ti salvano la vita senza guardare al colore della pelle. Il messaggio naturalmente è sacrosanto, perché i poliziotti fanno il loro dovere con abnegazione, però Rudy Giuliani è stato molto molto aggressivo, ha ricordato naturalmente le sue esperienze a New York, il suo successo con la sua politica di tolleranza zero contro la criminalità, e dice: noi dovremo portare questa tolleranza zero, questo successo contro la criminalità locale che ho avuto a New York a livello nazionale. L'unico che può farlo è Donald Trump. Gli errori di Hillary Clinton, a partire da quelli del 2012, non la qualificano per diventare presidente degli Stati Uniti. Il leader del cambiamento sarà Donald Trump. Ecco, questo è un po' il senso di questa prima giornata della convention storica di Donald Trump. Una giornata archiviata, devo dire, come ha scritto sul New York Times una nostra conoscenza, Frank Bruni, che ho intervistato qualche settimana fa con i microfoni di America 24. Frank dice: mi riesce difficile far quadrare il tema centrale di ieri sulla sicurezza americana con il fatto che l'oratore principale della serata fosse Melanie Trump. Ecco, forse ha ragione, è difficile collegare questi due punti che sembrano molto distanti fra loro, ma anche in questo è la genialità del Donald: scompaginare, come vi dicevo in apertura, per sorprendere, per uscire dai canoni di una politica, anzi di una correttezza politica che gli elettori non sopportano più. Nel 2016 forse è meglio l'incoerenza a sorpresa che la noia. Devo dire però che sarebbe meglio, come succedeva un tempo, avere sorpresa, passione e coerenza raccolte insieme nella stessa persona. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dedichiamola a Donald Trump e a sua moglie. Quando sono apparsi insieme sul palco, sono stati accolti dalle note di We Are The Champion, e dunque, dedichiamola a loro, dedichiamola a Donald e a Melanie Trump. We are the champion. I paid my dues. time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shelf and kicked in my face. Da Cleveland è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.